Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Stamani lo spread, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi, i Bund, a metà mattinata era quota 574 punti. Per tutta la mattina il termometro dello spread ha oscillato parecchio. Corsa di fibrillazione, risale lo spread. Inizia a salire, macina record dopo record. È allarme rosso sui mercati borsistici e su quello dei titoli di Stato. E se lo spread aumenta troppo, un paese non riesce più a finanziarsi sul mercato. È emergenza Italia. Così come ritorna il mal di spread. Lo spread rialza la testa e sfonda il tetto dei 500 punti. La vicenda dei tassi, Draghi, quadro peggiorato rispetto a un mese fa, borse in calo, spread in rialzo, risparmi. Lo spread è un numero arido, freddo, decisamente impertinente, ma è difficile trovare qualcosa che meglio di lui possa raccontare un frangente di storia d'Italia. Giù piazza affari, raffica di titoli sospesi e torna il rischio spread. Milano paga più di tutti l'incertezza sui mercati. È puntuale, quando il cielo volge al nero, lo spread risale. Lo spread è stato un incubo dal 2011 a poco tempo fa. Ilvo Diamanti, docente dell'Università di Urbino, direttore scientifico di Demos EP. Ecco, questo spettro che dal 2011 si è aggirato tra i notiziari della televisione, della radio, sui giornali, appunto lo spread ha assillato gli italiani dalla mattina alla sera. Oggi come si chiama il nuovo uomo nero che sostituisce lo spread e angoscia agli italiani? L'uomo nero che ha sostituito lo spread si chiama politico, con la P minuscola o maiuscola, dipende dai punti di vista. Cioè gli uomini della politica? Sì, quella che banalmente viene chiamata l'antipolitica è il trasferimento in coloro che fanno politica o su coloro che fanno politica delle cause, delle colpe di ciò che avviene intorno a noi e che ci rende insicuri. E quindi sono un po' risultano come il male assoluto, diciamo, il nostro uomo nero, come abbiamo detto. Sì, al di là di tutto serve a trasferire le nostre preoccupazioni su un bersaglio che è chiaro, che è anche identificabile. Lo spread, sì. Il signor spread era difficile da identificare. Il problema dello spread è che non si sapeva cosa fosse. Appunto. Cioè non aveva una faccia. Faceva paura, ma non aveva faccia. Sì, mio padre me lo chiedeva sempre. Ah sì? Cosa le chiedeva suo padre? Mio padre, che oggi non c'è più, mi diceva, ma io dimmi cosa sono spread. Perché, sa, lo spread era quello che veniva adottato e utilizzato, impiegato per chiarire le minacce sui nostri risparmi, le minacce sul nostro potere d'acquisto. A differenza di altri bersagli, ripeto, di altri colpevoli, non aveva voto. Certo, quindi un uso strumentale più facile. Più violento e più facile. Assolutamente, perché se si tratta, ripeto, anche dei politici, dipende da quali, però delle facce c'erano, certo. I corrotti, ma anche i non corrotti, ma gli incapaci o comunque coloro che non ci difendono e che non ci rappresentano. Certo, adesso col cambio progressivo della generazione dei politici, il politico almeno un diritto di mora ce l'ha, diciamo, in qualche modo, no? Ancora non so per quanto, ma il mito del nuovo politico, più o meno giovane, funzioni, perché quantomeno taglia con il passato. Però rispetto a questo male assoluto del politico, i telegiornali, soprattutto i talk show, che non sono mai stati così stracolmi di politica, hanno degli ascolti che sono in calo, non in crescita. Anche quella paura lì forse un po' è a rischio. C'è anche una spiegazione in tutto ciò, in realtà ce ne sono troppi. Ma non solo, ma se la politica genera ripulsa, in una certa misura ci allontana. E oltretutto non è neanche facilmente sceneggiabile. Cioè la criminalità comune, ad esempio, generava preoccupazione, ma la potevi in qualche modo sceneggiare benissimo e trasformarla addirittura in serial, in telenovela. Esattamente. Ma guardi, la crisi economica, ad esempio, certamente generava angoscia, certamente non aveva volto, ma proprio per questo, visto che toccava i tuoi interessi, le tue tasche, in qualche modo tu cercavi di approfondirla, ne cercavi di capire il senso, informazione, di informarti al proposito. Certo, in una certa misura il sottile, neanche tanto sottile fascino dell'orrido ti attrae per un po' di tempo, dopodiché quel che devi sapere ce l'hai. Ecco, professor Diamanti, quindi un italiano ha più paura del politico dentro al palazzo che non del criminale fuori dalla porta? Ma non è che abbia paura, è una cosa diversa. L'inquietudine o l'insicurezza non è la stessa cosa della paura. Certo. Comunque la paura ti attrae anche di più dell'incertezza o dell'insicurezza. Ci sono canali tematici. I canali crime, per esempio. Esattamente, che fanno ascolti molto alti. Ecco, però, professor Diamanti, tra il successo dei canali crime, in Italia sono molto, molto forti, non solo in Italia, programmi Italia di cronaca nera, eccetera, questi programmi crudi, morbosi, sono un antidoto alla paura della politica? Scaricano una tensione su qualcosa su un nemico identificato, sull'assassino percepito come tale o qualcosa del genere? I canali crime al di là e oltre la politica, nel senso certo che sono comunque uno sguardo sul nostro male quotidiano. È certo che noi in qualche modo esorcizziamo ciò che ci preoccupa nel momento in cui riusciamo a tradurlo in una vicenda. In una storia raccontabile, insomma, diciamo, che sia serializzabile. È una storia interessante che ci riguarda ma non ci riguarda allo stesso tempo. Ecco, dato che da noi ce ne sono tanti, hanno successo, certo, io le chiedo però, c'è un rapporto tra il successo di questi racconti, si parla sempre delle imitazioni, no? Il femminicidio, le mamme omicide, eccetera, eccetera. Ecco, questo reiterare questo racconto, ha un rapporto con i crimini reali, con la criminalità reale o no? Ma io distinguerei i casi, quelli che chiamo i casi criminali, che da noi sono stati sceneggiati, gli omicidi di genitori, di da figli, cogne, eccetera, insomma. E perché questi in qualche modo costituiscono lo sguardo angosciato sulla porta accanto e anche intorno a noi. In una certa misura uno, quando vede queste, utilizzo il caso noto, Pietro sì, Maso, sì, guarda con occhi diversi i figli, mettiamolo certo così, e si chiede, tutto bene magari, sì, in casa, però tutto bene, ma meglio, non si sa mai. Li distinguerei dalla serializzazione attraverso l'informazione. Ecco, ma volevo sapere se c'è un rapporto tra questo consumo, diciamo così, di noir, di racconti, sì, di cronaca nera e la realtà dei fatti. Ma certo, cioè in una certa misura sia il femminicidio ma anche i suicidi degli imprenditori, ecco, per esempio, costituiscono e che poi vengono definiti come tali, quasi come un genere inseriti certo all'interno dei notiziari, però hanno una capacità in una certa misura di sottolineare un problema. Non è un caso che i femminicidi come i suicidi degli imprenditori divengano dei casi, anche perché esistono delle associazioni, quelli che definiamo certo gli imprenditori mediatici, che li enfatizzano, in qualche modo certo, le drammatizzano, certo. Li drammatizzano, ma anche per sottolinearne l'effettiva gravità. Ma io volevo sapere. Se spariscono, rischiano di sparire anche questi problemi. Ma spariscono realmente? Cioè, volevo capire, c'è un rapporto diretto tra il raccontarne tanto, il parlarne tanto e il farlo accadere? Non è tanto quello, però se tu ne parli molto e ne sottolinei la gravità, questi problemi vengono politicamente e socialmente affrontati, altrimenti non esistono. Ma quantitativamente cambia? Lei l'ha misurato questo? Noi abbiamo misurato le relazioni tra la percezione e la realtà. La ecco, realtà questo su mi interessa. Su questi avvenimenti, l'entità di questi avvenimenti è statisticamente costante nel corso del tempo. I meccanismi che agitano e alimentano l'informazione Variano, variano secondo della... Sono autonomi, una certo. Certa, a volte sono condizionati dalla politica, dalle soprattutto in tempi di campagna sì, elettorale, sì. Quindi diciamo che... dagli ascolti. Però diciamo quindi che non c'è un rapporto diretto, ecco, fra le due cose. No, non c'è un rapporto diretto, però... Non è che i suicidi degli imprenditori aumentano e diminuiscono se se ne parla, aumentano e diminuiscono se c'è la crisi economica. Esattamente, però se viene sottolineato e enfatizzato il suicidio per ragioni economiche, magari io costringo il potere politico a occuparsi maggiormente del problema degli imprenditori e dei piccoli imprenditori. Questo avviene, diciamolo in altri termini. Ma un'ultima cosa, in questo scenario la paura futuro, intesa come speranza, è una parola che esiste o che non esiste più? La paura e riduzione del futuro. Se io ho un futuro, ho la possibilità di immaginare che anche i problemi che mi assillano attualmente io li possa in qualche modo affrontare e risolvere. Cioè la speranza e possibilità di immaginare un futuro migliore di quello attuale. Certo. Per cui in realtà la paura è strettamente legata alla riduzione del futuro, al suo annullamento e la presentificazione assoluta. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, Mario, sì. Volevo dirti, ma questo spread appunto è stato uno strumento potentissimo di paura, come ci dice adesso il Financial Times. Ci sta raccontando a puntate che effettivamente questo golpe, insomma questo tentativo di far fuori il governo Berlusconi attraverso l'uso di questo strumento, non è poi stato un'invenzione. No, ma questo era, diciamo, abbastanza noto, cioè che ci fossero pressioni sul governo in carica, su Berlusconi, per passare la mano. Se ne parlava apertamente sui giornali già nell'estate, cioè quando lo spread cominciò a galoppare. Ecco, ma c'è l'uovo, la gallina? No, sono insieme, perché quando lo spread arrivò ai 575 punti si calcolava che ogni punto costasse 100 milioni però di euro. Però con la Merkel si mette a piangere davanti a Obama, dice io non posso fare niente perché da me comandano i banchieri. Perché in quel momento, l'Eurozona sta per fare il cosiddetto break up, cioè si sta per rompere. La cosa interessante è che la prima puntata del Financial Times, l'Italia è citata 17 volte perché è l'hotspot, il centro di tutto. E la frase chiave di quel primo reportage è too big to bail, cioè troppo grande per essere salvata. Secondo i calcoli del Tesoro, un paese come l'Italia con 2 trilioni di debito, per avere un programma di salvataggio di 3 anni, insomma, si sarebbero dovuti sborsare 600 miliardi di euro, cifra che né l'Europa né il Fondo Monetario Internazionale hanno. Per cui è chiaro che vi fu la pressione per far uscire Berlusconi. Tra l'altro, faccio notare un'altra cosa. Tremonti si comportò benissimo perché rifiutò il prestito del Fondo Monetario Internazionale, che d'accordo. Era quello che serviva per ingabbiare tutto. Furono d'accordo lui e Berlusconi. Pietrangelo, ma la paura come strumento di governo? Abbiamo visto prima lo spread, poi il noir. Insomma, la paura è uno strumento forte di governo. Certo, la paura è l'elemento fondamentale della menzogna. La menzogna viene costruita per spaventare, e se posso buttarla bassa la discussione, quello che è accaduto in Italia con la signorina Spread non è nient'altro speculare a quello che è accaduto in Libia. Lì con i missili, qui con lo spread. Sono stati tutte e due dei cambi di regime gestiti per manovrare pezzi di sovranità e pezzi di territorio nella scena del Mediterraneo. Ecco, abbiamo sentito dallo spread al crime. E come strumento di gestione appunto di questa paura nei media italiani si è sviluppato un genere appunto che ha uno spazio molto dilatato e che ha un grande successo. Salvo Sottile, Quarto Grado è il programma che ti ha dato successo. Il tema del crime è un tema di grande ascolto in tutto il mondo. Tu ti sei ispirato a qualcuno? No non mi sono ispirato a nessuno se non alle regole di questo mestiere, cercare di informare non tralasciando nessun fatto, ecco, anche a scapito di poter sembrare a volte anche morboso. Ecco, ma sono più le volte che hai scelto tu il caso di cui occuparti o ti sei inserito sui casi famosi? Mi sono inserito su casi che interessavano l'opinione pubblica, cercando di concentrarmi su quelli che presentavano più lati oscuri ancora da chiarire. E hai avuto un criterio preferenziale o no? No, nessun criterio, sono andato a istinto. Ecco, e ti è capitato, ce ne hai tanto perché sei bravo, ti è capitato di arrivare dove polizia, carabinieri e magistrati non erano arrivati? Qualche volta sì. E ci sono arrivato anche cercando di fare il nostro mestiere, portando le telecamere lì nei luoghi in cui magari per pressappochismo oppure per superficialità polizia e carabinieri non erano arrivati. Mi puoi fare un caso? Dirmi un caso in cui è andata così? Beh, ce ne sono stati parecchi, magari uno mi ricordo il caso di Yara Gambirasio, un caso in cui ovviamente arrivammo a cercare delle tracce su un campo che non era stato transennato alla polizia e dove c'erano una serie di elementi che avete per trovato ricostruire voi la scena del crimine. Sì. Senti, ma l'uso di tecnologie, di analisi moderni, secondo te, che ci sei stato dentro parecchio a questo problema, rendono più certe le indagini oppure no? A volte sì, a volte no. Ci sono stati dei casi in cui le tecnologie hanno fatto la differenza, ci sono dei casi in cui a volte l'istinto dell'investigatore ha la meglio sulla tecnologia, sulla tecnica. Ecco Salvo, ma che idea ti sei fatto della giustizia, del modo di fare indagini, occupandoti così tanto delle indagini? Che non c'è una giustizia certa per nessuno perché non c'è un colpevole certo, quindi è vero sempre tutto il contrario di tutto. Quello che è una regola sono i fatti che devono essere messi in fila. Purtroppo la gente non ha più fiducia nella giustizia perché ci sono tanti assassini in libertà e qualche volta si scopre che magari in galera c'è qualche innocente, ma poi soprattutto perché i magistrati non fanno più i magistrati, fanno gli opinionisti e tante altre volte troppo in televisione, insomma, troppo in televisione dovrebbero stare un po' più sul campo. Ecco, ma il caso ideale per un conduttore come te è quello che non si risolve mai, insomma. Esatto, è quello che ti permette di andare a cercare sempre nuovi spunti e nuovi elementi per dibattere. E la passione degli italiani per i programmi crime è figlia, come dice il professor Diamanti, dell'esigenza di esorcizzare le paure più grandi? No, è come guardare un temporale da dietro una finestra. Hai paura di bagnarti, ma nello stesso tempo sei affascinato dalla pioggia. Ma è meglio la paura di un mostro o la paura dello spread? È la paura dello spread, certamente, perché almeno lo spread non ha una faccia. Sul mostro puoi fare un identikit. Ecco, il professor Diamanti ci ha detto che anche se aumentano i programmi crime, non aumentano in proporzione i crimini di cui si parla. Cioè, non è vero quello che si dice che poi c'è l'emulazione. L'hai verificato? È vero, non c'è l'emulazione, ma c'è una sorta di virus che riguarda il telespettatore che è come ipnotizzato da una storia, è come la favola di Pinocchio. Cioè, ce lo inventiamo un po' noi. Mille volte. Ce lo inventiamo un po' noi questa, come dire, questa sovrapposizione continua di racconto, come se fosse sempre più importante. Assolutamente sì. Ecco, vorrei chiederti un'ultima cosa. Per esempio a Garlasco abbiamo visto che le cugine di Chiara Poggi si sono subito trasformate in protagoniste dello show, hanno afferrato, come dire, l'occasione al volo. Ecco, in generale i familiari delle vittime sono sempre più facilmente protagonisti e facilmente coinvolgibili? Sì, e sono a volte vittime della televisione anche loro. Basta ricordare la cugina di Sara Scazzi, era convinta di stare dentro il Grande Fratello, poi alla fine è stata arrestata con l'accusa di aver ammazzato la cugina. Mix 24. Donna, tu sei mia. E quando dico mia, vai più via, è meglio che rimani qui a far l'amore insieme a me. Sempre in metropolitana? Sempre in metropolitana. Stavo leggendo Sant' Alfonso Maria de Liguori, precisamente la teologia morale, quando, ascoltando questo brano, ne ho percepito che cosa? Il possessivo. Poi, le supposizioni folli che diventano coltelli. Quindi, l'offerta del seno, orgoglio dell'animale sano. Dopodiché mi sono detto, è meglio un uomo solo, come canta Lucio Battisti, ma era la teologia morale, era puro Sant'Alfonso Maria de Liguori in questa bellissima canzone. Un uomo che ti ama. Sto per esplodere. Ma ce la facciamo a reggere il livello? Che partiamo dici? Con le andiamo bolle. Con le bolle, vedrai, vediamo un adesso. Po'. Vai con le bolle, vai. Che cosa hanno in testa? Che cosa hanno in testa? Hanno in testa il fatto che si va esaurendo. Guardi la progressione. Versailles, Suez, 1973, guerra del Golfo, guerra del Golfo 2. Questo è uno scontro mortale. Allora, è un pezzo di Siriana. Le rivoluzioni costano, si fanno per molti motivi, spesso per l'energia. Ce n'è una in corso, diciamo, nel cuore dell'Europa o dell'Eurasia, se guardiamo un po' di più ad est. E la domanda, cari amici, è sempre la stessa: chi paga? Perché le rivoluzioni, lo ripeto all'infinito, costano. Il Fondo Monetario Internazionale, torniamo a loro, che sono gli architetti del mondo, ha garantito un prestito da 17 miliardi di dollari agli amici ucraini. Molto bene. Tre rotti sono già stati consegnati. Poi, dopodiché, in una conferenza stampa dell'8 maggio, a una domanda di un giornalista, Rice, che è il capo della comunicazione del Fondo Monetario Internazionale, risponde così. Ci sono dei rischi. Nel qual caso, cioè nel caso Kiev perdesse il controllo delle regioni separatiste, il programma verrà ricalibrato. Cioè, ripeto, non gli danno più. Bravo. Ripeto la parola perché è dolce. Ricalibrato, che è un modo gentile per dire che no money, no control, no money, no niente soldi. Allora, ora, qua la situazione è molto divertente, perché a questo punto il Cremlino dice: cari europei, noi vogliamo che paghiate la bolletta del gas degli ucraini. E allora? E allora sono 2,2 miliardi di dollari più l'anticipo per le prossime forniture. Chi paga la pazza idea di fare una rivoluzione a tavolino studiata a Washington in quel di Kiev? Noi, cari ascoltatori. Mi sembra che Putin ancora una volta la vista lunga. Molto lunga, molto lunga. Hanno messo fare il prestito e poi dopo che si è preso i soldi. No, ma Medvedev è stato grandissimo. Dice, ora i soldi li hanno. Possono pagare. Posso dire, adesso, senza dare un giudizio morale, certo. Cose. Putin è un genio della diplomazia. 800 24 00 24, 34 il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Questa è Blondie, Call Me, qualcuno di noi la ricorderà, stiamo cominciando a diventare, non dico vecchietti, ma insomma. Senti, Colmi. Allora, per dire che cosa? Che Motorola, uno dei giganti della comunicazione, lancia un telefonino che dovrebbe fronteggiare i cosiddetti dumb phone. C'è una battaglia in corso. Dumb phone, smartphone. Gli smartphone sono quelli intelligenti, i dumb phone sono quelli stupidi, cioè non sono connessi. Si chiamerà Moto E, o E, come volete, è un telefonino che costa 99 dollari. Perché è importante tutto questo? Perché pochi sanno che in realtà le vendite di smartphone solo nel 2013 hanno superato quelli dei dumb phone, cioè dei telefonini stupidi. Su 1,8 miliardi di telefoni venduti, 968 milioni sono smartphone, finalmente. Il resto no. È interessante, no? Ma con gli 80 euro di Renzi si può comprare, quindi? Eh certo. E poi vai su Google. Per questo fa il furbetto con amico. La cosiddetta web tax. Con cosa telefono? Rovina la Rai, però poi mette la web tax. No, lui veramente la web tax la vuole togliere. La toglie. Appunto, appunto. Dico, rovina la Rai invece di farsi dare i soldi da quelli, da Google e compagnia. Quello, massacra senso. L'Italia. Allora, Quota Rosa come telefono, intelligente o no? Oh, oggi è il Battisti Day, non lo sapevo. Battiato sarà furibondo dall'altra parte. Ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni. Sì, io telefono in modo intelligente per rispondere alla domanda. Però, perché ho usato Battisti? Perché è vero che noi donne siamo un po' la croce e la delizia di voi uomini, ma in realtà anche di noi stesse. Ma perché dico questo? Wikipedia ha cambiato direttore, passando da una canadese a Lila Tretikov, 36 anni, russa. Ma la cosa bizzarra, per me almeno, è che nonostante il vertice di Wikipedia sia donna, in realtà noi donne siamo poco raccontate. Poche righe striminzite, diciamo, quando va bene. E si capisce anche che gli editor dei contenuti sono prevalentemente maschi. Volete una prova? Prova? La lista delle attrici porno anni 50, per esempio, è dettagliatissima. Ben 3 volte più lunga della lista, ad esempio, delle sportive o delle poetesse. No, credevo degli attori porno. Per no, restare. No. E quindi un problema in casa avete? Abbiamo un problema in casa. Cioè, donne, svegliatevi. Salamino. Anestetico, Beppe Grillo alla fine ha trovato il suo anestetico, perché è preda del suo monomaniacale ruggito pop, è sempre arrapato di liste, di blog, di piazze, di espulsioni, di gogne, di fatto, e oggi è descritto bene in un editoriale di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che trae proprio una morale, cioè l'anestetico l'ha trovato Beppe Grillo e l'anestetico è Bruno Vespa. Il cosiddetto nemico della TV, quindi, arriverà nel salotto di Porta a Porta. Tutti si sbizzarriscono in interpretazione. Io la critica invece, preventiva, Grasso. Invece io ne avrei una, un'interpretazione che secondo me è quella proprio un retroscena vero di sangue. Sapete perché Bruno Vespa ci teneva così tanto ad avere Beppe Grillo? Dicelo. Perché ha voluto consumare la sua definitiva vendetta contro Pippo il nemico Baudo. Con Pippo Baudo, perché Pippo Baudo è il titolare vero di questa, rapporto di con questo Grillo. Marchio che si chiama Beppe Grillo, e fu Pippo Baudo a scoprirlo quando Grillo si presentò così. Vero. Mi chiamo proprio Grillo. Vedo che non me ne frega proprio niente. Cosa volevate, un provino Frank Sinatra? Non lo so. Che io non sono mica abituato a questi congegni, cose. Mi ha detto, vieni qua, io arrivo da Genova. E vorrei cogliere l'occasione, perché la RAI me lo permette, di smitizzare un po' questo fatto dei genovesi, che io non ce la faccio più. Che tutti pensano che il genovese sia tirato. Non è vero niente. Il genovese non è così. Che io mi sto rovinando, non ce la... Io voglio di qua, quanto è un caffè? 200, te? 205. Non ce la faccio più. Era bravo. Beh, era Grillo che faceva veramente tanto di... Questa è tratta dalle cineteche del Re, ma fa parte della storia di Grillo, che manderemo in onda presto a Mix 24. Il 13 maggio, parliamo di cose serie, il 13 maggio del 1917 ci fu la prima apparizione della Madonna di Fatima. Questo era il clima. Pioveva a dirotto. A mezzogiorno Lucia disse di chiudere gli ombrelli perché stava arrivando la Madonna. Improvvisamente il cielo si squarciò. Le nuvole scomparvero immediatamente. E il sole cominciò a muoversi, a pulsare e a colorarsi di mille colori. La gente aveva paura perché credeva che il sole li avrebbe travolti e uccisi. Molti allora si misero in ginocchio a pregare, pensando che fosse arrivata la fine del mondo. Ecco, nella seconda ora Marina Milone, come sempre, per la storia di Mix 24 ci racconterà la storia, appunto, dei segreti. Posso dire di Fatima? Una cosa? Sì. No, che Minoli non si chiama Giovanni Minoli, si chiama Archivio Minoli, perché qualche volta, non so, noi prendiamo il caffè la mattina, questa la racconta, stiamo parlando di varie materie dello scibile, e lui alza gli occhi al cielo e dice: questa ce l'ho in archivio, c'ho la storia, e tira fuori il CD, la cassetta, è una cosa micidiale, quindi attenti perché Minoli ha una storia su tutti voi. Senti Sara... Sara, stai, cosa ti sbracchi a fare? Ci sono politici? Sì, ci sono i due, diciamo, politici di punta in Italia. Dudu e Aiace Telamonio non ci abbandonano al telefono. Sono eccitati oggi. Sì. Eccitati. Buongiorno, buongiorno ad Aiace, buongiorno a Dudu. Allora, in linea sempre più piccolino prima. Dudu, c'è qui Mario Secchi che ha una domanda per te. Buongiorno, Dudu. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma che carino che è, mi sta quasi diventando simpatico. Carino, io chiamo i gatti e non i cani. Dolcezza. Vabbè, senti Dudu, io sarò secco, ma questo complotto contro Berlusconi a Cannes c'era o non c'era? Perché io ho letto anche sulla stampa stamattina che l'ex ministro del tesoro Geithner dice che gli chiesero a Obama di far cadere Silvio. Dudu, tu cosa sai? Ah, grazie, proprio grazie. Allora dice Dudu che lui non ha avuto bisogno di leggere la stampa di oggi perché ha ascoltato Mix 24 e la risposta te la può dare Giovanni Minoli. Dice, prego Giovanni. Sì, insomma, mi pare che questo complotto cominci a delinearsi abbastanza chiaramente. Allora io però vorrei chiedere ad Aiace. Aiace in linea? Sì. Ci ascolta, anzi, informa oggi. Ecco, vorrei chiedergli, ma questo passaggio dai Dalemoni ai Renzoni era meglio quando veniva invitato a mangiare la crostata a Casaletta, si stava meglio, era più forte, più contento? Ascoltiamo, prego. Era senza dubbio meglio coi Dalemoni piuttosto che coi Renzoni. Ma? Ah sì, dici, però, se si ha nostalgia della crostata, nessun problema, perché i cuochi del Quirinale sanno fare delle squisite crostate. Ah, quindi si cacciamo sempre in zona. Sì, mi porto avanti. Col lavoro, bravo, grazie, bravo. Grazie, grazie. Canzoniere. Nel 1517 il padre Bartolomé de las Casas ebbe molta compassione degli indios che si estenuavano nei laboriosi inferni delle miniere d'oro e propose all'imperatore Carlo V l'importazione di negri che si estenuassero nei laboriosi inferni delle miniere d'oro. Wow. Mix 24. Pensaci, cosa ti danno 20.000 piedi di tangenza? Meno turbolenze. Perché è al di sopra delle perturbazioni. Noi vogliamo volare al di sopra delle perturbazioni. Solo l'1% della popolazione americana ha mai messo piede su un aereo di linea. Perché? Perché la gente è terrorizzata e ne ha motivo. Allora, questo è un pezzo di The Aviator, un grande film di Martin Scorsese, il protagonista Leonardo DiCaprio, e racconta la storia di un gigante dell'industria americana che è Howard Hughes. Voi direte, vabbè, il film è già fatto, il personaggio è noto. Cosa succede? E stanno confezionando un altro film. Cioè Warren Beatty, che sarà produttore, regista e protagonista, con Alec Baldwin, che torna a interpretare un personaggio legato ad Howard Hughes, e stavolta un personaggio misterioso, che si chiama Robert Mahé, che era il consigliere di Hughes, una ex spia che diceva di non averlo mai incontrato e di ricevere i suoi ordini con delle note riservate. Per la cronaca, Hughes era l'uomo più ricco d'America tra gli anni 40 e 50, inventore, produttore, regista, aviatore, una figura eccezionale. Professor Doglio, abbiamo Professor Doglio? Serdoglio adesso anche lei? Come fai? Sì, perché sennò sono invidioso di Simonelli. Ecco. E oggi a chi fai i conti in tasca? Allora, vabbè, Marcia di Escamillo, ambientazione sonora spagnoleggiante a cui dovremmo abituarci, perché nelle comunicazioni italiane e spagnole ci sono molti incroci che nelle prossime settimane verranno sicuramente in luce. Ma più che celebrare il torero Telefonica de España, che ha matato il gruppo Prisa e si è preso il 56% della pay TV satellitare Digital Plus per soli 725 milioni questo di euro. Questo è un problema per Mediaset. Questo è un problema per Mediaset, ma io lo vedrei quando verrà fuori qualcosa di più chiaro. Tuttavia, io oggi volevo parlare di un altro argomento per la quale ci vuole una ambientazione sonora meno trionfalistica. Sono sicuro che vuole parlare della TV spagnola. Esatto, la TV pubblica spagnola, naturalmente. Schiacciata da 800 milioni di debiti, TV e Spagna, TVE, è a rischio bancarotta. E se ciò avvenisse sarebbe la seconda TV di servizio pubblico in Europa, dopo quella greca che deve gettare la spugna. Nel frattempo ricordiamo che quella portoghese ha chiuso uno dei due canali. Quindi un argomento... Quindi le TV pubbliche sono in chiusura in Europa, questo mi sta dicendo. Insomma, no, diciamo che le TV pubbliche hanno dei problemi. Lei sa che la televisione pubblica spagnola è un caso abbastanza particolare, nel senso che è nata nel 56, due anni dopo, diciamo, l'inizio delle attività televisive della RAI, a 17 anni dalla fine della guerra civile, ed è stata fino al 2009 l'unico servizio pubblico al mondo privo di canone e finanziato esclusivamente dalla pubblicità, perché ai tempi della sua fondazione Francisco Franco, che Montanelli considerava un militare, un soldato poco intelligente, ma che in questo caso ha dimostrato di essere sicuramente scaltro, piuttosto che far pagare un canone a un paese stremato da 20 anni di dittatura e di miseria, che non avrebbe gradito di partecipare al finanziamento della voce del regime, ha chiamato l'industria spagnola a finanziarla attraverso la pubblicità, in questo modo legandosela ancora di più. Certo. 800, scusi, professor Doglia, 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666. Siamo in attesa della risposta sul canzoniere. Prego. Andiamo avanti. Allora, poi l'altra caratteristica è nel 2009 questo sostegno assoluto della pubblicità viene tolto dalla sera alla mattina. Il governo socialista di Zapatero decide di togliere a TVE, a TVE Spagna, la pubblicità, sostituendola con un finanziamento diretto dello Stato basato... Cioè un finanziamento a piedi lista praticamente. Un finanziamento sulla fiscalità generale con un limite a 1 miliardo di euro e è finanziato da un'imposta a cui devono concorrere le compagnie telefoniche e gli operatori internet. Ecco. Era voi? Che cosa succede? Succede che da questo punto di vista, nel corso degli ultimi 5 anni, a botte di 120 milioni all'anno di perdite, siamo arrivati a superare il 50% del capitale sociale, che in Spagna obbliga a portare i libri in tribunale. Scusi Doglio, c'è Mario Segui? No, volevo dire che la cosa di Doglio è molto interessante ed è la metafora dei cosiddetti pigs, cioè stiamo parlando della crisi, guarda caso, delle TV pubbliche di Portogallo, Grecia, Spagna. E mettiamoci anche l'Italia, perché devono fare 150 milioni di tagli. È ancora diverso, sì. È un caso molto diverso, perché in Italia, bene o male, il criticatissimo, discutibile, potremmo parlarne a lungo, sistema duale con una parte importante di pubblicità, un canone importante, una pubblicità importante, permette alla RAI di tenere la linea di orizzonte, anche se comunque... I problemi sono evidentemente, anche lì ci sono problemi. Ecco, ma Rajoy in Spagna che fa allora dopo questo momento... disastro? Per finire la storia, perché siamo in chiusura? Per il momento ha dichiarato che attiva una linea di finanziamento di 120 milioni di euro, vuole la testa degli amministratori e proporrà un nuovo modello di finanziamento del servizio pubblico, di cui peraltro non dice nulla, ma noi... siamo molto interessati a sapere e seguiremo naturalmente, perché i servizi pubblici ci interessano, ne parleremo ancora. Grazie professor Giorgio. Oggi c'è qualche risposta per il canzoniere? Ma fai delle domande troppo difficili, non risponde nessuno. E come difficili? Qua siamo proprio uno degli autori vabbè, della letteratura universale. Vabbè, vabbè, la rimandiamo a domani. Se non rispondono oggi in un'inchiesta di Elisabetta Castana, Marina Milone ci racconta la storia dei segreti di Fatima e qual è oggi la posizione della Chiesa in un'intervista al Cardinal Tarcisio Bertone.